Cortese, ogni cosa va secondo la sua volontà, cielo e terra e acqua e vento. Tutto quanto ho fatto a ben guardare è davvero cosa miracolosa. Se uno ti dovesse spiegare quale sia la natura del cielo, si troverebbe davvero smarrito. Allo stesso modo, poco o nulla capiamo dell'aria là in alto dove gli uccelli dimorano e vivono, come è nella loro natura. Anche dell'acqua poco capiamo, solo quel tanto che con gli occhi vediamo, là dove misura, di ciò di cui poco sappiamo, non è saggio se troppo parliamo. Della terra possiamo parlare con cui Dio ha voluto formarci, del mondo che abitiamo potremo parlare non poco. Lasciamo stare i segreti che Dio non ha voluto mostrarci. Parliamo di quanto sappiamo. Lasciamo stare ciò che non capiamo. Del mondo sappiamo, a prezzo di grandi fatiche, troppo per un verso, poco per un altro. Chi crede di saperne di più a ben giudicare ne sa poco davvero. Chi è meno incline alla falsità ne sa in vero moltissimo. Ma parliamo un poco del mondo e delle cose che vi si trovano. Molte ve ne sono che conosciamo e molte di più che non capiamo. Eppure sono numerosi coloro che credono solo alla realtà di ciò che hanno visto e direttamente sentito. Ma vi è molto di più per chi ben sa cercare. Più andrà per il mondo, più lo apprenderà. Nel mondo, che è tanto grande, vi sono molte cose di cui non sappiamo granché. Quelli d'Occidente non sanno le grandi meraviglie d'Oriente, e di queste potete ora conoscerne alcune, se volete rivolgere a me la vostra attenzione.